Ed eccomi qui, riuscita a uscirne fuori da questo mondo distante. E poi eccomi qui ancora, però c'è un guasto male nel cuore. Io sogno un tempo senza tirannarmi, me lo sogno comunque ogni notte. Parte di me che non ci sta, sento colpita il cuore, la parte di me che ama. Il mondo che calpesta i figli non gli ha dato niente, questo è solo un bel quadro, ti ci specchi ma non vedi niente. Ora noi non ci pieghiamo, ora noi guardiamo avanti, dai, mi chiedo come mai. Investigare le parole oscure che volano su un tempo morto che è troppo veloce, feroce, va a dimenticare che non c'è l'alba, è buio qui per me, ma puoi dormire o uscire fuori dall'altra parte, dall'altra parte, dall'altra parte, dall'altra, dall'altra, dall'altra, dall'altra parte. Non c'è più niente che valga la pena guardare, ascoltare, scoprire, sentirne poi l'odore.